giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Cabino Via di Trieste, procedimento autorizzativo da rifare, il TAR accoglie il ricorso delle associazioni ambientaliste. I negozi tra i regali di Natale e il via dei saldi, il momento migliore dell'anno. I commercianti tracciano un bilancio dopo la prima parte dell'inverno. Migranti a Trieste, ancora decine quelli esclusi dalla rete dell'accoglienza, 40 quelli che dormono all'addiaccio. Le previsioni meteo per i prossimi giorni, tempo altalenante, nelle prossime ore scenderanno le temperature. Calcio, l'Udinese presente al difensore francese Solé, domani sera la partita a Verona, la Triestina ingaggia il difensore Cancellieri. Judo al via il Winter Camp di Lignano, in 1200 sui tatami per 3 giorni. 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. In apertura il progetto della cabinovia di Trieste. La regione dovrà riavviare il procedimento autorizzativo. Lo ha deciso il TAR del Friuli Venezia Giulia, accogliendo il ricorso di alcune associazioni ambientaliste. La sentenza è appena stata pubblicata. L'iter di autorizzazione per realizzare la cabinovia di Trieste deve essere riavviato, manca la compatibilità urbanistica, lo scrivono i magistrati Carlo Modica di Moac di Grisì, Daniele Busico e Claudio Amicelli nella sentenza del Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia, che accoglie dunque il ricorso presentato dagli ambientalisti della LIPU, WWF, Lega Ambiente e Rete Associativa Comitato No Ovo Via, rappresentati dall'avvocata Laura Polonioli. La regione, si legge nella sentenza, valuterà ora se concludere il procedimento verificando la compatibilità urbanistica dell'opera oppure se sospenderlo fino a quando la variante 12 al piano regolatore includerà la localizzazione della cabinovia e sarà pienamente entrata in vigore. Da 3 anni il Comitato No Ovo Via sostiene che mancano i requisiti urbanistici e da 3 anni gli uffici pubblici insistono nel costruire un progetto senza requisiti minimi, spiega l'architetto Starz del Comitato. Il TAR aveva già dato ragione agli ambientalisti lo scorso maggio. Il prossimo 16 aprile arriveranno le sentenze degli altri 3 ricorsi pendenti e più sostanziosi sull'iter del progetto. Commenta Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia, la sentenza è un macigno che richiama l'amministrazione alle proprie responsabilità, ora riconosciute per essere più di una forzatura, bensì vere e proprie illegittimità. La città, dice Massolino, ha bisogno di progetti reali, sostenibili e non effimere e costose affermazioni di potere. Nella sentenza i giudici sottolineano come senza i requisiti minimi non avrebbe senso da parte della pubblica amministrazione elaborare e proporre un progetto definitivo di un'opera sin dall'origine vietata dai vincoli territoriali. Manca uno dei requisiti fondamentali e così le condizioni per portare avanti il progetto sono, dice la sentenza, decisamente aleatorie. Smentita anche la tesi dei legali della regione, secondo cui le concessioni post conferenza dei servizi possono avere l'effetto di una variante urbanistica. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella notte di Capodanno i finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno scoperto 4 lavoratori in nero, riscontrando inoltre diverse mancate certificazioni relative a chioschi posizionati in piazza. I lavoratori, tutti italiani, lavoravano in 2 bar distinti aperti per i festeggiamenti. I 2 titolari sono stati sanzionati. Nel corso dell'anno, fanno sapere le Fiamme Gialle del Friuli Occidentale, nel Pordenonese sono stati individuati 259 lavoratori in nero e 33 irregolari, sanzionando 144 datori di lavoro e sospendendo 61 attività. Il prezzo degli affitti cresce in regione. Secondo le stime di un portale online, nel corso del 2024 sono aumentati del 12,9%, collocando il Friuli Venezia Giulia al 4º posto in Italia per aumenti, preceduto da Campania, quasi il 16%, Calabria oltre il 15% e Piemonte 13,5%. Nonostante l'incremento, il Friuli Venezia Giulia mantiene i prezzi al di sotto della media nazionale, pari a 13,9 euro mensili per metro quadrato. Ancora in primo piano la questione migranti a Trieste. Una 40 di persone, che pure avrebbero il diritto di accedervi, restano oggi escluse dalla rete dell'accoglienza. La Caritas, tra gli altri enti che si occupano di assisterli, chiede che si acceleri sul versante dell'inclusione. L'accoglienza degli stranieri che intendono richiedere protezione a Trieste permane difficile. Alla data del 27 dicembre risultavano note all'ICS almeno 24 persone, tra cui due donne, che non riuscivano ad accedere alle strutture di prima accoglienza per i richiedenti asilo. In questi giorni il numero delle persone rimaste fuori dal circuito dell'accoglienza si è ridotto, ma ne sono arrivate altre. Una decina hanno trovato spazio a Campo Sacro nella struttura gestita dalla Caritas diocesana di Trieste. Il direttore, padre Giovanni Lamanna. Allora, Camposacro ha una presenza di 75 persone, Sant'Anastasio di 24, il numero di persone che sono per strada in questo momento non dovrebbero rappresentare un problema per la città di Trieste. Volgendo tutte le realtà impegnate nell'accoglienza e nell'aiuto di queste persone, ripeto, non dovrebbe essere un problema. Ci vorrebbe dunque più sinergia, una migliore comunicazione tra tutte le realtà che si occupano di accoglienza. La struttura di Campo Sacro è ancora sprovvista dei moduli a prova di bora che accrescerebbero il numero dei posti. Se ne occupa la prefettura che ha indetto il bando di gara. Per quanto riguarda la rete fognaria, i lavori di ampliamento non sono ancora partiti. La prefettura da noi contattata sugli sviluppi ci farà sapere dopo le festività. Il comune non ci ha risposto. Intanto è padre Lamanna ad annunciare delle novità. In questo mese potrebbero esserci degli sviluppi? In questo mese di gennaio abbiamo in cantiere qualcosa che possa aiutare l'accoglienza. Trieste, Andrea Marucic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, abbiamo cielo da poco nuvoloso a sereno su pianura e costa, da sereno a variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle ore 11, a Trieste 8 gradi, ha ripreso a soffiare la bora con una velocità media di 45 km orari. A Gorizia, Udine, a Pordenone ci sono 9 gradi, nell'area montana a Tolmezzo 4 gradi, a Tarvisio 2 gradi e mezzo, a Sappada 3 gradi e 5 decimi sotto lo zero, a Forni di Sopra 5 gradi positivi, sul Piancavallo 2 e mezzo. È ancora in quota, vediamo, sull'Ussari meno 4, sullo Zoncolan 3 gradi sotto zero. Sulla costa di nuovo a Grado e a Lignano 9 gradi. Ora scopriamo come sarà il tempo nelle fine settimana e per l'Epifania, dando uno sguardo al problema dell'inquinamento delle polveri sottili. Ce lo spiega il previsore dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, Sergio Nordio. La nostra regione è prevista una notevole dinamicità del tempo. Dopo il passaggio di questo fronte stamattina, che ha prodotto delle piogge sparse, un po' più abbondanti sul Carso, sulle zone orientali, già aria più secca, con schiarite, sono in estensione insomma dalla zona montana verso tutta la regione nel corso del pomeriggio della serata. Insieme con queste schiarite tornerà a soffiare bora sulla costa, che è già presente, bora da moderata a sostenuta nelle prossime ore, andrà però esaurendosi abbastanza rapidamente nel corso della notte. Domani mattina freddo, bel tempo, con cielo in prevalenza sereno sulla regione e gelate diffuse anche in pianura, qualche grado sotto zero un po' dappertutto, a parte proprio sulla linea di costa, e molto freddo in montagna, con valori anche intorno ai meno 10 nei fondovalle. Resterà una giornata soleggiata, con delle velature e un po' di borino ancora presente sulla costa al mattino, ma anche questo andrà poi diciamo calmandosi. Tempo cambia nuovamente invece domenica su pianura e costa, avremo un cielo in prevalenza nuvoloso, probabilmente anche coperto nel corso della giornata, resterà più soleggiato in montagna, soprattutto in quota nelle zone più interne. Sulla costa e sulle zone orientali possibile nel pomeriggio di domenica qualche piovigine, qualche debole pioggia. Condizioni simili anche per l'Epifania, grigio, freddo e umido su pianura e costa, tempo variabile con un po' di sole invece ancora in montagna e ancora delle possibili deboli piogge sulle zone orientali. Un altro fronte veloce arriverà nella serata del 6 dell'Epifania e nella notte successiva porterà scirocco anche sostenuto sulla costa con piogge anche abbondanti e abbondanti nevicate in montagna, però probabilmente soltanto a quote un po' più alte, intorno ai 1200 metri circa. E come sarà la situazione dell'inquinamento dell'aria? Ma diciamo che la presenza intanto di questo primo fronte ha già portato un ricambio della massa d'aria con l'arrivo del borino, quindi di condizioni anche di aria un po' più secca, qui anche rimescolamento. Per quanto riguarda i prossimi giorni c'è l'arrivo nuovamente, come dicevamo, da domenica e per il giorno dell'Epifania di correnti da sud-ovest, tutto sommato non sembrano condizioni particolarmente gravose per il ristagno, visto che l'atmosfera tende comunque a essere in movimento per l'arrivo di un altro fronte, quindi non c'è un anticiclone che porta ristagno e atmosfera quieta, quindi quelle condizioni che sembrano un po' peggiorative. Ripartiamo con la cronaca. 3 candidati pakistani che dovevano sostenere l'esame teorico per la patente sono stati denunciati dalla polizia locale di Trieste perché durante la prova a quiz informatizzato ciascuno di essi nascondeva sotto i vestiti uno smartphone con microcamera, microfono e mini auricolari. L'ipotesi è che fossero in collegamento con qualcuno che dall'esterno suggeriva loro le risposte. Sono stati individuati da operatori in borghese, fatti intervenire dai responsabili della motorizzazione civile nella sede di via Udine, dove si stava appunto svolgendo la prova. I 3 sono stati allontanati dalla sede d'esame e ora dovranno rispondere di una serie di reati, tra i quali quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. La conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alla produzione in Italia del vino dealcolato o a bassa gradazione alcolica. Abbiamo raccolto le reazioni dei viticoltori regionali. Il mondo della vitivinicoltura regionale si esprime con distaccata freddezza verso i vini dealcolati, considerati uno stravolgimento della filologia enologica imposto dalle grandi lobby commerciali e già attuato da alcuni paesi europei. Ma i produttori tirano anche un sospiro di sollievo perché la dealcolazione non potrà riguardare i vini DOC o IGP, ma solo i generici da tavola, quindi il Pinot Grigio, il Friulano o le altre denominazioni non saranno alcohol free. 2 le tipologie in base alle percentuali: il dealcolato va da 0 a 0,5 in gradazione alcolica, il parzialmente dealcolato da 0,5 a 8,5. Il presidente di Coldiretti Gorizia, Martin Figel. Quello che è un po' da capire è soprattutto che fine farà questo alcol che verrà ottenuto dalla dealcolizzazione, se sarà possibile riutilizzarlo all'interno della catena alimentare oppure verrà considerato come un prodotto da uso industriale. Inoltre è da capire anche chi effettivamente potrà fare questo processo, perché il regolamento specifica in maniera molto chiara che deve essere del tutto separato dal resto, ad esempio, della cantina. Per quanto riguarda il mercato, sicuramente se andiamo a vedere il mondo della birra, dove alcol zero esiste già da diversi anni, parliamo oggi neanche di un 2% di consumo di prodotto. Il presidente del Consorzio Tutela Vini Collio, David Buzzinelli. Di certo che i vini dealcolati sono pensati per aprire nuovi mercati, ma è anche certo che dealcolare un prodotto vuol dire denaturarlo. La fermentazione è un processo naturale che si è sempre svolta da secoli e secoli, che dà l'anima al vino. Mi sembra sconcertante arrivare al punto dove il nostro prodotto venga denaturato in tal maniera per poi presentarsi come un vino dealcolato. Cormons, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo alla pagina degli spettacoli, si intitola Milano-Trieste, andata e ritorno, lo spettacolo degli Yaga Pirates in scena questa sera a Trieste al Teatro Miela. Musica, dialoghi teatrali, sketch con la partecipazione del pubblico, passando da Giorgio Gabera ed Enzo Iannacci, la parte milanese, fino a Lelio Luttazzi, Giorgio Streller e Nereo Rocco, ovvero la sponda triestina. L'inizio alle 20:30, domani alle 18:00. La Roma 3 Orchestra String Ensemble si esibirà stasera al Teatro Paolo Maurenzi e Gedi Feletto Umberto con il suo concerto di Capodanno. A suonare anche il pianista Matteo Bevilacqua e la soprano Silvia Cafiero per un programma dedicato a Dvorak, Strauss e Wagner. Durante l'intervallo il direttore artistico della Roma 3 Orchestra, Valerio Vicari, presenterà il libro Richard Wagner, il cane e il pappagallo, che esplora i lati meno noti del musicista tedesco. Inizio alle 20:30. Per la rassegna Ti racconto una fiaba a Trieste arriva oggi fino al 6 gennaio lo spettacolo interattivo Telegiocando, produzione della Contrada, la sezione Teatro dell'Infanzia, insieme al Teatro Stabile Sloveno, per immergersi nel mondo dello scrittore Gianni Rodari. Un misto di racconti, giochi e clownerie in cui un grande televisore diventa una città magica in cui i personaggi giocano con domande, oggetti e con le storie appunto di Rodari. In scena al Teatro Bobbio, l'inizio a oggi alle ore 16:00. E ora lo sport, il calcio, poco fa a Udine la presentazione di Oumar Solé, il 25enne difensore francese che l'Udinese potrebbe schierare già domani sera nel confronto di Verona contro l'Hellas. In Serie C la Triestina ha ufficializzato questa mattina l'ingaggio del difensore Damiano Cancellieri, 23enne proveniente dall'Avellino, per lui un contratto fino al termine della stagione. È la terza operazione in entrata della società alla Bardata dopo gli arrivi dell'attaccante King Udò e del centrocampista Luca Fiordillino. A Lignano è cominciato il camp invernale di judo organizzato dallo Yama Arashi di Udine. Base ormai consueta per questa manifestazione di grandi numeri, il palasport del Bella Italia Village, dove sono stati allestiti 1400 metri quadrati di tappetino, il maxi tatami sul quale gli atleti si alleneranno fino a domenica. Sentiamo. Una marea colorata di bianco e blu che si scalda, ascolta i consigli dei tecnici, prova le mosse, si affronta negli uno contro uno. È il popolo del judo che ha riempito il palazzetto dello sport del Bella Italia Village di Lignano per il 26esimo Judo Winter Camp. 4 giorni di allenamenti, da qui all'Epifania, organizzati dall'associazione Judo Yama Arashi Udine, per un appuntamento diventato ormai una tradizione di inizio anno. Tra i 1200 partecipanti, anche nomi di spicco come Fabio Basile, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici del 2016, e Francesco Bruyère, capo allenatore dell'Italia femminile, oltre all'olimpionica udinese Asia Tavano. Ma i primi a debuttare sul tatami sono stati i giovani delle categorie Under 15 e Under 18. 9 i paesi rappresentati, dalla Slovenia alla Polonia, dall'Ucraina al Senegal a Israele, da dove è arrivata la squadra di Ariel Zevi, già campione europeo e medaglia di bronzo olimpica. Per me, ha detto Zevi, da ex atleta è una grande emozione essere a questo meeting così importante. Ho creato un team di cadetti e volevo che il loro anno di allenamento cominciasse qui. Lignano, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione che vi è stata proposta da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Carlo Morello e Caterina Cabrelli, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. 12:47, prossima edizione alle 15. Grazie per il vostro ascolto e buona giornata ancora. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.